10. Ascolta e controlla. 1. Vai al tuo posto. Andate al vostro posto. Andiamo al nostro posto. 2. Sii gentile con loro. Siate gentili con loro. Siamo gentili con loro. 3. Stai buono e zitto. State buoni e zitti. Stiamo buoni e zitti. 4. Dai il buon esempio. Date il buon esempio. Diamo il buon esempio. 5. Di tutto al giudice. Dite tutto al giudice. Diciamo tutto al giudice. 6. Stai tranquilla. State tranquille. Stiamo tranquille.